Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Pomeriggio, ben ritrovati, mancano pochissimi secondi alle 17:09, oggi lunedì 21 settembre. Di che cosa parleremo nella puntata di oggi? Parleremo del credito, un problema per le imprese, ne ha parlato questa mattina anche la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, noi invece ne parliamo con il vicepresidente di Confapi Nazionale che è anche presidente di Confapi Varese per capire un po' qual è la situazione, la reale situazione sul territorio. Quali sono i problemi, che cosa stanno vivendo le aziende e come si stanno anche muovendo, organizzando, che iniziative hanno allo studio. E poi parleremo anche di finanziaria perché questo pomeriggio, anzi dovrebbe essere già cominciato da qualche minuto, l'incontro tra governo e parti sociali per appunto parlare della manovra, che però come sapete dall'anno scorso a questa parte è cambiato qualcosa, non si tratta più delle vecchie finanziarie. Parleremo anche della classifica del PIL del benessere, quindi non solo una classifica fatta sulla ricchezza delle città, delle aree geografiche italiane, ma prendendo in considerazione molti altri criteri per capire dove si vive meglio, dove le persone sono più felici da noi. E poi parleremo ovviamente come ogni giorno di mercati, parleremo anche di risanamento perché i PM hanno dato parere negativo al piano di salvaggio della società. Più in generale, appunto, andremo a vedere che cosa è successo sulle piazze finanziarie. Oggi non è una buona giornata, lo diciamo subito, l'abbiamo detto e raccontato per tutta la giornata nei nostri appuntamenti con il 24esimo. Che cosa sta succedendo in questo momento? L'Europa sta leggermente recuperando rispetto alle perdite di qualche ora fa, molto più pesante invece il calo a Milano. E allora partiamo però dagli Stati Uniti, il Dow Jones cede uno 0,45%, il Nasdaq in questo momento guadagna 1,07%, lo Standard & Poor's cede 1,043%, Parigi cede lo 0,41%, Francoforte ha inflessione dello 0,8%, Londra cede un punto percentuale. A Milano il FTSE All Share cede l'1,93%, il FTSE MIB l'1,92%. Molto pesante oggi il settore bancario, anche perché Milano registra una performance peggiore rispetto alle altre piazze europee. Il miglior titolo, e a dir la verità in questo momento sono solo tre i titoli che stanno guadagnando, il migliore è comunque Luxottica, che è in progresso di poco più di un punto percentuale. Invece in fondo al listino troviamo Tenaris che cede il 4,5%, ha un po' recuperato UniCredit che cede il 2,4%, ma era arrivata a perdere oltre 3 punti percentuali. E poi spiegheremo anche perché. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,4678 sul dollaro e invece il numero per tutti i vostri sms è 349-238-6666. Adesso le nostre notizie in breve. Come sempre partiamo dal petrolio. Nei primi scambi al mercato NYMEX di New York i futures sul petrolio passano di mano a $69,89 al barile, in calo del 3% rispetto a venerdì. Restiamo negli Stati Uniti, il superindice economico che anticipa l'andamento futuro della maggiore economia mondiale ad agosto ha segnato un rialzo mensile dello 0,6% come a luglio. Le previsioni erano per un rialzo dello 0,7%, quello di agosto è comunque il quinto rialzo consecutivo dell'indice, ma questo dato leggermente al di sotto delle attese degli analisti ha sicuramente influito anche sull'andamento dei listini americani. I salari dei manager Microsoft dovranno avere l'ok degli azionisti. Per la prima volta, scrive il Financial Times, i compensi saranno sottoposti al voto di chi detiene una quota del capitale del colosso di Redmond. La regola sarà effettiva dal 19 novembre per l'assemblea annuale. Ieri la SEC ha comunicato il salario della D, Steve Ballmer, cresciuto nel 2009 del 4% a fronte di un calo del 17% dei profitti. Vi riportiamo quanto ha dichiarato un ex top manager: se potessi tornare indietro, i mobili del mio ufficio li comprerei da IKEA invece che spendere 1,2 milioni di dollari, tra questi 1.700 dollari solo per il cestino della spazzatura. Questo è il rimpianto che John Tain, ex amministratore delegato di Merrill Lynch, ha confessato parlando alla Wharton Business School, tornando a quei terribili giorni di un anno fa, quando la crisi finanziaria mise in ginocchio le grandi compagnie americane, tra cui anche la sua, che venne assorbita dalla Bank of America. In Europa, alcuni Stati membri continuano ad avere spazio di manovre per fornire ulteriori stimoli di bilancio nel breve termine. In altri Stati, lo spazio di manovra è praticamente finito a causa degli alti livelli di deficit e debito pubblico e dei crescenti interessi sui titoli di Stato. Questo è quanto scrive l'OCSE. Per questo motivo, tutti gli Stati membri hanno bisogno di formulare piani chiari e credibili per assicurare la sostenibilità dei bilanci nel medio termine. Suggerimento che l'OCSE formula nel suo rapporto sull'economia dell'Unione Europea. In merito all'Italia, che cosa dice l'OCSE? Dice che riforme del mercato che vadano verso una minore regolamentazione potrebbero portare a una sostanziale crescita della produttività del lavoro, che potrebbe arrivare anche a un più 10% in paesi come appunto l'Italia, ma anche la Francia, la Germania, nell'arco di un decennio. E poi ancora, le industrie italiane sono costrette a pagare l'elettricità più cara fra tutti i loro concorrenti nell'area OCSE, quanto appunto emerge dal rapporto dell'Organizzazione sull'Economia Europea, in cui si sottolinea come il prezzo dell'elettricità per l'industria in Italia si attesta a 200 euro a megawattora contro i soli 40 euro che pagano le imprese francesi. L'Italia stacca di gran lunga il secondo paese più caro per l'elettricità, l'Irlanda, dove le imprese locali devono pagare meno di 130 euro a megawattora. Sopra i 100 euro anche Slovacchia, Ungheria, Austria e Repubblica Ceca, mentre in Europa, oltre alla Francia, a pagare l'elettricità a meno di 50 euro a megawattora ci sono solo la Norvegia e l'Austria. Fitch ha confermato i rating sui titoli di debito pubblico dell'Italia, ovvero AA- per le emissioni di lungo termine e F1+ per il breve, segnalando che al momento non prevede di modificarli. Le prospettive sull'Italia sono su stabile, ha comunicato l'agenzia con una nota. La finanziaria, come già vi abbiamo detto, ne parleremo poi nella seconda parte del programma. La manovra 2010 viene illustrata oggi alle parti sociali e domani sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Si tratterebbe anche quest'anno di una manovra light, con pochi articoli, 3-4 articoli e tabelle. L'entità della finanziaria dovrebbe aggirarsi intorno ai 3-4 miliardi. Che cosa succede però a questo incontro? Le regioni e il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani non partecipano all'incontro convocato appunto questo pomeriggio, che si svolge proprio in questi minuti a Palazzo Chigi. Lo si è preso in ambienti della Conferenza delle Regioni. La decisione sarebbe maturata per protesta nei riguardi del governo, al quale si contesta di rinviare da tempo ogni confronto con le regioni. A poche ore dall'incontro tra governo e parti sociali, proprio quest'intarda mattinata, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha chiesto di lavorare nella gestione dell'emergenza della crisi con attenzione agli ammortizzatori sociali, decontribuzione dei salari e ulteriore detassazione dei salari di secondo livello. Sentiamo la presidente di Confindustria al microfono di Stefano Totoro a margine dell'Assemblea degli Industriali di Bergamo. Ma noi continuiamo a chiedere da una parte di lavorare ancora nella gestione dell'emergenza della crisi, quindi attenzione agli ammortizzatori sociali, decontribuzione dei salari, ulteriore detassazione dei salari di secondo livello, e chiediamo anche che vengano eseguite le leggi che sono già state decise. Il credito d'imposta per la ricerca non può essere bloccato, il credito d'imposta per il Sud deve andare avanti. Nello stesso tempo però chiederemo che, per quanto riguarda il medio termine, si ritorni fortemente a parlare di riforme, quindi andare avanti con la riforma della burocrazia, della scuola, fare investimenti in infrastrutture. Sono stati stanziati dei soldi, però per il momento ancora pochi sono i cantieri aperti. Per uscire dalla crisi ci sono ancora cose da fare, la situazione non è risolta, questo ha ulteriormente aggiunto Emma Marcegaglia. Sentiamola ancora al microfono di Stefano Totoro. Noi abbiamo l'impressione che ci sia un lenta ma costante miglioramento della congiuntura. Chiaramente se vediamo anche i dati di luglio un po' migliorati, ma li confrontiamo con luglio 2008, siamo sempre a meno 20%. Quindi io credo che in realtà noi continueremo a crescere, però come sempre diciamo il percorso sarà lungo e faticoso. Quindi ci sono ancora delle cose da fare, la situazione non è risolta, dobbiamo tutti avere grande senso di responsabilità e portare avanti appunto riforme che permettano al Paese di e uscire più forti rispetto ad adesso. Come sappiamo, questo è un periodo in cui vanno a rinnovo moltissimi contratti di lavoro. L'auspicio, ha detto la presidente di Confindustria, di tutti noi, è di riuscire a firmarli con tutti i sindacati. Sentiamo la Marcegaglia. Noi crediamo che bisogna andare avanti, bisogna modernizzare, bisogna cambiare, per questo abbiamo deciso comunque di andare avanti e fare questa riforma degli assetti contrattuali. Ovviamente riconosciamo importanza a tutti i sindacati, la CGIL è un grande sindacato, la CISL, la UIL, l'UGL, tutti, e quindi ovviamente noi abbiamo tutto interesse a far sì che pur andando avanti e modernizzando riusciamo ad avere l'accordo di tutti i sindacati. Quindi sì, sto cercando di fare questa cosa. La presidente di Confindustria ha poi parlato anche del tema di cui ci occupiamo oggi in apertura, che è quello del credito, la difficoltà dell'accesso al credito per le imprese. La Marcegaglia ha detto: siamo contro le crociate alle banche, ma questo è un problema che va affrontato e risolto. Sentiamola ancora al microfono di Stefano Totoro. Noi, come sapete, abbiamo chiesto, noi insieme alla Confindustria tedesca, una revisione delle regole di Basilea 2, perché Basilea 2 rende l'accesso al credito per le imprese molto più pericoloso, molto più difficile, e dall'altra parte noi siamo contro le crociate alle banche, però diciamo anche che ancora riscontriamo una percentuale significativa di imprese, soprattutto le piccole, che hanno un'oggettiva difficoltà di accesso al credito. Quindi questo problema va affrontato e va risolto. Ci sono una serie di notizie di cui darvi conto nella giornata di oggi. Prima di tutto, per le imprese italiane è caro tassi sui prestiti a breve termine. Questo è quanto emerge da uno studio della CGIA di Mestre, secondo il quale i tassi a breve italiani sono i più cari d'Europa, tra i più cari d'Europa. Al contrario, più vantaggiosi di altri paesi sono invece i tassi a lungo termine. I tassi applicati in Italia a luglio di quest'anno per i prestiti inferiori a un anno, che poi sono quelli che garantiscono proprio l'andamento quotidiano dell'azienda, toccano la soglia del 4,06% contro il 3,92% della Germania, che può sembrare poco, ma su poi somme ingenti fa molto la differenza. Il 3,72% della Spagna, il 3,11% dell'Olanda, il 3,05% della Francia. La media dei paesi dell'area euro ha toccato il 3,72%. Per contro, invece, i tassi a lungo termine superiori ai 5 anni vedono le banche italiane essere le più virtuose in assoluto. Questa mattina alla riunione degli industriali di Bergamo era presente anche Corrado Faissola, che è il presidente dell'ABI, e il quale ha detto: i tassi di interesse applicati nell'area dell'euro sulle nuove operazioni di finanziamento alle società non finanziarie di importo fino a 1 milione di euro si collocano a luglio 2009 al 3,72%, un valore più elevato, ha detto Faissola, rispetto a quello praticato in Italia, che secondo Faissola è al 3,31%. Questo ovviamente in riferimento a quanto poi detto e invece fatto uscire dalla CGA di Mestre. In merito alla moratoria firmata, lo ricordiamo, ai primi di agosto tra Confindustria e altre associazioni di categoria e l'ABI, a oggi il numero delle banche che ha aderito alla moratoria sui crediti è di quasi 400, pari a circa 31.000 sportelli, oltre il 90% del totale degli sportelli del sistema bancario, ha detto Faissola, quindi il presidente dell'ABI. Però a testimoniare che il credito peggiora alle piccole e medie imprese in Eurolandia è arrivata anche la Banca Centrale Europea, la quale dice: nei primi 6 mesi del 2009 sono peggiorate le condizioni creditizie alle piccole e medie imprese di Eurolandia, proprio mentre aumentava il loro fabbisogno di finanziamenti. Questo è quanto risulta da un nuovo studio della Banca Centrale Europea sull'accesso al credito delle piccole e medie imprese, secondo cui il 43% delle aziende che hanno chiesto un prestito fra gennaio e giugno ha notato un inasprimento dell'accesso al credito e solo il 10% un miglioramento. Prevale sicuramente il pessimismo fra le piccole e medie imprese europee per quanto riguarda la disponibilità di prestiti nei prossimi 6 mesi. Questo è ancora quanto emerge dallo studio della Banca Centrale Europea e noi lo abbiamo tastato con mano perché abbiamo sentito precedentemente, contattandolo, il vicepresidente di Confapi nazionale e presidente di Confapi Varese, Franco Colombo, che è in questo momento collegato telefonicamente con noi e che saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, dottor Colombo, abbiamo sentito alcune affermazioni della presidente Marcegaglia. Cominciamo a parlare del problema del credito, un problema che sta strozzando molte piccole e medie imprese. Ricordiamo la Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Italiana. So che voi proprio qualche giorno fa avete fatto un osservatorio per capire qual è la situazione, anche perché abbiamo letto anche oggi sui quotidiani, soprattutto per quanto riguarda il credito a breve, i tassi applicati in Italia sono i più alti rispetto al resto d'Europa. Sì, purtroppo la situazione è così, c'è una enorme difficoltà a aderire e avere forme di credito per le imprese. Il credito a breve è quello di funzionamento, quello che deriva dallo sconto delle ricevute bancarie, delle fatture all'interno del sistema creditizio. Abbiamo visto che non solo è difficile, molto difficile, ottenere i fidi adeguati a quelle che sono le esigenze delle aziende e riuscire quindi operativamente, quotidianamente a lavorare, ma anche che il differenziale, il cosiddetto spread fra il tasso ufficiale di sconto, l'Euribor, e quello che effettivamente viene pagato dalle aziende è enormemente più alto. Questo anche per effetto di quel sistema un po' pernicioso che è di Basilea 2, il famoso sistema del rating, della valutazione della qualità dell'azienda e dell'affidato, che naturalmente, prendendo a spunto i bilanci dell'anno scorso e la situazione attuale, fa per la maggior parte delle nostre aziende, che ricordiamo in Italia su 4 milioni e 76 mila imprese, 3 milioni e 880 mila sono sotto i 10 addetti, diventano poi costi difficilmente sostenibili, tra l'altro in una situazione particolarmente difficile. Quindi difficoltà di accedere al credito, difficoltà di dilazionare quello che è il credito che è stato ottenuto, magari dei mutui, leasing e finanziamenti in passato, e molto caro, e si paga molto caro nei confronti del sistema bancario. Ecco, Presidente, poi parleremo anche di Basilea 2 e della richiesta di una moratoria che voi avete messo a punto insieme a tutta un'altra serie di richieste. Io però le chiedo proprio di capire qual è il polso della situazione sul campo, nel senso che mi chiedo quante aziende attualmente riescono anche ad avere i criteri per accedere al credito, sebbene poi si parli di un credito che è molto più caro rispetto a quello che viene erogato nel resto d'Europa. Ma guardi, noi abbiamo fatto una valutazione, e la stiamo facendo anche in quegli osservatori che sono stati istituiti in ogni prefettura per valutare la situazione dell'accesso al credito del mondo delle imprese, industriali, del commercio e dei servizi. Possiamo semplificare dicendo questo: c'è un terzo delle aziende che ha enormi difficoltà ad accedere al credito ed è veramente quasi fuori, in una situazione di difficoltà dove le posizioni sono cosiddette anomale e cominciano ad avere enormi difficoltà a rispettare quelle che sono le scadenze. Un terzo delle aziende che riesce a mantenere i propri affidamenti con difficoltà, e un terzo delle aziende che comunque continua ad andare avanti perché i propri settori sono stati colpiti dalla crisi, ma non hanno avuto quella diminuzione di fatturato che c'è stata per gli altri settori. Consideri che per un settore come quello del metalmeccanico parliamo di fatturati che si sono ridotti del 60% rispetto a quelli degli anni scorsi. Per questo terzo, che anche riesce ad accedere al sistema creditizio con garanzie, perché è un'azienda ben patrimonializzata e quant'altro, la differenza con la media dei paesi europei nell'accesso del credito è quella di pagare circa 2,5 punti in più percentuali rispetto a quello dei concorrenti, in una situazione in cui i tassi sono bassissimi da questo punto di vista. Le ho fatto questa domanda piuttosto precisa, Presidente, perché all'indirizzo mail di Focus Economia sono arrivate alcune lettere di imprenditori che sono a dir poco drammatiche, cioè denunciano situazioni veramente allo stremo delle forze, prossimi fallimenti, alcuni addirittura paventano il pericolo di disordini pubblici, insomma di episodi addirittura di eccessi incontrollabili per reazione ovviamente a una situazione che si fa davvero dura e che forse nei prossimi mesi lo sarà ancora di più. Questo noi lo affermiamo da molto tempo, sarà il trimestre più difficile dell'anno perché veniamo da un anno di crisi intera, iniziata bene o male nel settembre dell'anno scorso, la crisi del manifatturiero. Purtroppo i segnali che vengono spesso citati dai media sulla crisi che si è fermata, sicuramente dal punto di vista finanziario, le grandi società finanziarie non rischiano più le banche, il fallimento come sembrava qualche tempo fa, ma l'onda lunga di questa crisi è ancora tutta sulle spalle delle imprese manifatturiere che oggi stanno vivendo una situazione particolarmente difficile. È vero che c'è la possibilità che questo disagio sociale sfoci poi in una forma magari anche di proteste. La grande maggioranza delle imprese, di quelle imprese, piccole e medie imprese che sono la spina dorsale dell'economia, sono in una situazione difficile dove hanno messo all'interno della propria azienda tutto quello che potevano mettere dal punto di vista anche di proprietà personali e ci sono situazioni di disagio enorme. Disagio che poi, come si sa, porta sempre a delle situazioni difficili. Ricordiamo anche che abbiamo i nostri collaboratori che sono spesso in situazioni difficili perché sono in realtà che hanno la cassa integrazione in deroga che viene finanziata, ma spesso ci sono dei ritardi di pagamento, quindi ci troviamo anche di fronte a dei lavoratori che magari da 2-3 mesi non riescono a ricevere le loro spettanze e questo crea dei disagi molto forti e pericolo che certe situazioni possano degenerare. Presidente, volevo proprio chiedere se avete già avuto o prevedete di avere dei riscontri su quel famoso accordo di moratoria firmato da Confindustria e le banche ai primi di agosto che doveva permettere una sorta di dilazione appunto per quanto riguardava i crediti, i mutui. L'hanno firmato tutte le associazioni datoriali insieme a Confindustria, Confapi, gli artigiani, i commercianti, i consigli di amministrazione, i vertici delle banche hanno prontamente aderito a questa moratoria. Il problema è che poi quando un imprenditore tecnicamente e molto praticamente va in filiale per chiedere di aderire a questa moratoria o non sanno come fare o viene risposto così, si prende il solito tempo, le cose si allungano e non c'è ancora un'indicazione chiara di come in tempi brevi queste azioni possano poi trovare la loro effettiva attuazione. Siamo proprio in una situazione come fra coloro che fossero sospesi, c'è stata questa importante presa di posizione, anche i vertici degli istituti creditizi hanno immediatamente aderito con i loro consigli di amministrazione a questa moratoria perché era stata firmata dall'ABI e poi le banche si sono adeguate. Tecnicamente però non c'è ancora un segnale di persone che hanno e imprese che hanno potuto aderire a questa moratoria, un po' per quello che è avvenuto anche per i privati nel caso dei mutui, quando qualcuno perdeva il lavoro, era in cassa integrazione o chiedeva la moratoria sul pagamento del mutuo per la casa, non si sono ancora avute risposte. Questo è un grande problema perché di azioni sono state fatte, ma poi l'effettiva e pratica attuazione di queste azioni non si è ancora vista. Parliamo anche più nello specifico di quelli che sono ad esempio problemi concreti come gli studi di settore. A breve dovrebbero partire gli aggiornamenti degli studi di settore, c'è chi ha chiesto di bloccare questi aggiornamenti, voi chiedete proprio una moratoria generale, una soppressione sugli studi di settore. Sì, perché questo strumento già noi siamo stati come Confapi l'unica organizzazione datoriale nazionale a non firmare l'accordo sugli studi di settore che fece l'allora ministro Visco. Sì. Questo perché consideriamo gli studi di settore uno strumento non adeguato per valutare le capacità reddituali delle aziende, soprattutto poi in questo momento in cui i dati sono completamente sballati dal punto di vista economico e questi sono dati comunque sintetici e fatti da calcoli calcoli finanziari e matematici che non tengono assolutamente conto di una situazione di crisi generalizzata, ci potremmo trovare di fronte a una situazione in cui non solo le aziende non sono congrue, ma non sono anche regolari per quello che concerne lo studio di settore, e quindi con tutta la difficoltà poi di dover aprire contenziosi per dimostrare, certo, qual è la situazione. Sa che questa sua riflessione potrebbe, come dire, far storcere un po' il naso ai dipendenti anche all'indomani dei dati ritirati fuori e pubblicati dal Corriere della Sera proprio a proposito delle dichiarazioni dei redditi, per cui ovviamente i dipendenti risultano molto più ricchi degli autonomi. Sì, su questo bisogna creare però una profonda divisione. Per esempio, si tende a confondere molto il popolo con delle partite IVA con il popolo delle imprese. Lo studio di settore riguarda la capacità reddituale di un'impresa e si sa che la capacità reddituale dell'impresa dipende dalla possibilità dell'impresa di avere ricavi con dei margini congrui rispetto ai costi che si hanno. Nell'impianto manifatturiero, per l'imprenditore, per l'impresa, l'utile alla fine dell'anno poi è la fonte principale di reddito rispetto alla quale si calcolano quelle che sono le tasse e quant'altro. Devo dire che in questi anni molte imprese, non è un caso, in Italia hanno una scarsa propensione a fare utile, ma non questo perché ci sono fenomeni distrattivi o evasivi sotto questo punto di vista, è perché c'è una situazione economica particolare in cui purtroppo la competizione in questi anni si è stabilita semplicemente sul prezzo, le aziende hanno dovuto competere con competitor anche esteri che hanno ragionato solo su costi più bassi. In realtà da noi una certa quota di costi è impossibile diminuirla, naturalmente, perché abbiamo degli oneri sociali completamente diversi e dei costi di approvvigionamento di energia completamente diversi, si è andata a sottigliare in questo periodo il cosiddetto margine rispetto a quello che le aziende. Però lo studio di settore di per sé oggi non colpisce la persona fisica per quello che concerne, ma colpisce l'azienda in quanto tale, quindi il paradosso è che possono venire fuori più tasse di quelle che l'azienda può in questo momento pagare, creando anche dei problemi poi direttamente alla forza lavoro che opera all'interno dell'azienda. La sua spiegazione è chiarissima, anche se a onor del vero bisogna dire che in quei dati poi riletti, analizzati dal quotidiano, venivano ovviamente conteggiate anche le società, in alcuni casi dipendenti che risultano anche molto più ricchi di società. Però Presidente, io volevo con lei presentare anche questa iniziativa che state mettendo a punto, che è una lettera da inviare al governo e al Parlamento con una serie di richieste molto precise da parte appunto della piccola e media industria. Sì, ci sono una serie di azioni che chiediamo, la sospensione degli acconti fiscali proprio perché sono strutturati in modo tale da essere completamente lontani dalla realtà rispetto a quello che si sta verificando oggi. Al discorso dell'IVA per cassa è meritoria l'azione che è stata fatta, ma lei consideri che un'IVA di cassa di 200.000 euro non riguarda quelle migliaia di aziende, milioni di aziende manifatturiere che insomma hanno fatturati più ampi. Noi chiediamo che ci sia una dimensione diversa rispetto al fatturato dei 200.000 euro di limite per l'IVA per cassa. Ecco, specifichiamolo, quindi innalzamento dell'attuale limite di 200.000 euro a 50 milioni di euro. Euro di fatturati che andrebbero a colpire proprio la grande fascia di quella piccola e media impresa, perché un'impresa che fa 50 milioni di fatturato è già un'impresa di dimensioni più ampie, che è quella che sta soffrendo di più in questo momento, tra le altre cose quella più strutturata. Sul discorso dell'IRAP si sono spesi fiumi di parole e chilometri di carta stampata sul fatto che questa è un'imposta che colpisce chi investe e chi assume, ed è un assurdo in questo momento. È assurdo che oggi chi mantiene l'occupazione rispetto a chi fa procedure di mobilità, fa uscire forza lavoro dalla propria azienda, sia penalizzata dal punto di vista dell'IRAP. Quindi chiediamo un'azione concreta di premialità per chi si sta impegnando a mantenere tassi di occupazione. Per chiunque voglia informazioni, info@api.varese.it. Io ringrazio il vicepresidente di Confapi Nazionale e presidente di Confapi Varese, il dottor Franco Colombo. A lui buon lavoro. Grazie e buon lavoro a tutti. Le 17.42, ben ritrovati. Adesso è il momento di andare a vedere che cosa è successo sui mercati. E lo facciamo in compagnia di Andrea Fontana, il collega di Radiocor, che saluto. Buonasera Andrea. Buonasera. Tanto che non ci sentiamo io e te, adesso cerchiamo di capire che cosa è successo oggi. Tutto sommato, sul finale le piazze del vecchio continente hanno recuperato qualcosa, anche se comunque il segno è negativo ovunque. Parigi meno 0,41%, Francoforte meno 0,62%, Londra meno 0,61%. Più pesante, molto più pesante, Milano, dove il FTSE All Share ha ceduto l'1,86%, stesso risultato per il FTSE MIB. Un inizio di settimana, insomma, da archiviare alla svelta. Beh, insomma, una correzione che probabilmente era nelle corde di questi listini dopo due settimane passate in vivace recupero, in vivace rialzo, una correzione che ha interessato soprattutto il comparto delle materie prime e il settore delle costruzioni. Non dimentichiamo che oggi il petrolio ha decisamente invertito la tendenza, scendendo intorno in area $68 al barile, e che poi ha interessato, oltre a questi due settori, anche il comparto bancario, e questo ha avuto effetti negativi su Milano, che, come ricordiamo, è particolarmente sbilanciata, certo, diciamo, soprattutto nel FTSE MIB, sui bancari, sugli assicurativi, sul settore finanziario in genere. Andrea, partiamo dal peggiore, che è stato Tenaris, meno 4,46% al termine della seduta. Sì, certamente Tenaris è l'esempio più evidente di questa correzione, di questa frenata dei listini, un titolo che ormai dall'inizio di settembre saliva in maniera decisa. Nell'ultima settimana aveva recuperato circa il 10%, quando erano emersi nella prima parte di settembre indicazioni positive, un certo ottimismo sulla ripresa del portafoglio ordini per la seconda parte dell'anno e sul 2010. Oggi ha accusato, complice anche, come ricordavamo, il ribasso del greggio, una correzione piuttosto forte, che l'ha riportata ad appoggiarsi sui 12 euro per azione. Giù anche Parmalat, che oggi ha ceduto il 2,73%, a onor del vero, però dobbiamo dire che sono moltissimi i titoli che hanno chiuso poi la seduta in rosso, solo tre sono riusciti a guadagnare terreno. Comunque, dicevamo, Parmalat meno 2,73%. Oggi per Parmalat era la giornata dello stacco della cedola da 0,041 euro. Il ribasso, diciamo così, tu l'hai spiegato in parte certamente con l'andamento diciamo, in generale dei listini. C'è da dire che anche venerdì era arrivata una notizia certamente non favorevole a Parmalat, anche se secondo alcuni analisti non ha avuto un impatto, non ha motivato il ribasso di oggi, ovvero il Tribunale di New York ha respinto le accuse avanzate da Parmalat nei confronti della società di revisione dei conti Grant Thornton, sempre legate al crack del gruppo emiliano. Parmalat farà comunque appello, vedremo come si evolverà la situazione. Certamente questo ha un po' diciamo penalizzato l'umore dei mercati sul titolo del gruppo alimentare oggi. Peggio di Parmalat ha fatto Mediaset, che ha ceduto poco meno di 3 punti percentuali. Diciamo che il settore dei media, in particolare quello televisivo, ha incontrato oggi una generale frenata, non solo Mediaset ma anche ProSiebenSat in Germania e ITV a Londra hanno chiuso con ribassi significativi. Ha pesato certamente l'indicazione arrivata da JP Morgan, che un po' sul settore media e appunto sul settore televisivo in particolare ha un po' rivisto i giudizi, in particolare consigliando una posizione piuttosto neutrale su Mediaset e non come precedentemente aveva questa banca d'affari, una posizione particolarmente ottimista sull'andamento di Mediaset. Questo ha portato un po' la frenata. Sono le 17:49. Allora, Andrea, andiamo ad analizzare un altro caso di oggi, che è quello di UniCredit, che sul finale è riuscita a recuperare un po' meno 2,58% il calo a fine seduta. e Unicredit è stata un po' una delle protagoniste in negativo della seduta di oggi. Insomma, c'è molta carne al fuoco, molta attesa su quella che sarà non solo la decisione dell'istituto sull'adozione o meno dei Tremonti Bond, decisione che è attesa per la prossima settimana col CDA del 29 settembre. E che diciamo che l'istituto vorrebbe osteggiare a tutti i costi, non sono proprio propensi ad adottarli. Esatto, e appunto per questo l'attesa successiva è quella di quali misure il gruppo potrà mettere in atto per dare vita al rafforzamento patrimoniale alternativo, misure alternative a quelle dei Tremonti Bond. Oggi certamente. C'è stata proprio una nota del gruppo che ha sottolineato come si stanno studiando un po' tutte le opzioni possibili. È chiaro che questa incertezza e soprattutto l'ipotesi che circola sul mercato di un aumento di capitale, vedremo in che forma e se questo avverrà. Certo, anche perché ricordiamo che l'aumento di capitale c'è stato già un anno fa, più o meno. Esatto, quindi un titolo che non ha ancora recuperato pienamente, anzi non ha proprio recuperato nel corso di questo anno se non parzialmente, e oggetto nuovamente di un aumento di capitale, insomma, fa certamente temere gli operatori di borsa. Certo. Che oggi sono tenuti abbastanza lontani. Andrea, ti chiedo velocissimamente di parlarci di Luxottica, perché è stato il titolo migliore, ha guadagnato poco più di un punto percentuale, ma proprio in una battuta. In una battuta, a fine della scorsa settimana Luxottica ha annunciato la decisione di pagare il dividendo sul 2008, non l'aveva fatto in primavera, aveva detto aspettiamo ancora qualche mese. Questa decisione certamente positiva per i possessori di titoli Luxottica ha spinto poi il titolo oggi e l'ha tenuto a galla nonostante la brutta giornata generale dei listini. Grazie ad Andrea Fontana per essere stato con noi ed averci aiutato ad analizzare questa seduta odierna di borsa. Noi continuiamo a parlare di mercati perché oggi pessima giornata per Risanamento, una flessione di quasi il 14%. Ci facciamo spiegare quali sono le novità dalla collega del Sole 24 Ore, Laura Galvagni, che saluto. Benvenuta, ben tornata Laura. Buonasera a voi, grazie. Allora, ci eravamo lasciate proprio un mese fa dicendo l'udienza è spostata e rinviata di un mese, domani ci sarà questa udienza in tribunale, però il parere dei PM sarebbe negativo, queste sarebbero le indiscrezioni trapelate, quindi sul piano per quanto riguarda Risanamento ci sarebbe il parere negativo dei PM. Esattamente, oggi a sorpresa i due PM che si stanno occupando del caso e che di fatto hanno aperto il caso promuovendo questa istanza di fallimento hanno depositato alla cancelleria del giudice per Luigi Perrotti un proprio parere sulla vicenda, valutando di fatto il piano di salvataggio inadeguato. Nella fattispecie l'avrebbero definito più un piano di liquidazione che un piano di ristrutturazione, ossia non avrebbero contestato i contenuti del piano finanziario, ossia l'aspetto di ripatrimonializzazione con i conseguenti aumenti di capitale, quanto più che altro il piano industriale, cioè i potenziali aspetti di rilancio della società. I due PM di fatto riterrebbero che in questo caso ci si sia più che altro preoccupati di valorizzare gli asset in portafoglio di Risanamento piuttosto che ipotizzare una strada per rilanciare la società. Certo, quindi in sostanza di fare un po' cassa. Esattamente. La preoccupazione dei PM è esattamente questa, che ci sia preoccupati solo ed esclusivamente di fare cassa. Quindi una sorta di liquidazione posticipata di Risanamento. Ecco Laura, ti chiedo, a parte il fatto che dobbiamo registrare che da parte di Risanamento, quindi della società, ha emesso una nota prende atto con sorpresa di queste conclusioni della Procura di Milano. A questo punto, nell'udienza di domani, secondo te cosa potrebbe succedere e quali sarebbero gli sviluppi a questo punto della vicenda? A questo punto non dico che può succedere di tutto, ma quasi. Nel senso che difficilmente verrà presa una decisione sul fatto se Risanamento fallirà o meno, più probabilmente verrà deciso un rinvio. Che tipo di rinvio può essere? Può essere un rinvio per la nomina di quello che deve essere poi il collegio giudicante, perché in realtà non spetta al giudice ma a un collegio giudicante stabilire se il risanamento fallirà o meno, quanto piuttosto ci potrebbe essere un rinvio ad una nuova udienza nella quale invece avvocati di risanamento e PM dall'altra parte discuteranno sull'effettivo stato di salute della società. Queste di fatto sono le due opzioni: o si va subito verso un collegio giudicante o si va verso una nuova udienza. In ogni caso, i tempi previsti, ci si aspetta che per metà novembre, poco dopo metà novembre, la cosa venga definita e di fatto quindi si venga a sapere qual è il destino. Esatto, il destino di risanamento. L'effettivo destino della società. Grazie a Laura Galvani, ovviamente torneremo a collegarci con te, perché a questo punto, come giustamente detto, tutto può succedere, quindi già da domani potremo forse capire qualcosa di più della vicenda. A te buon lavoro, buon pomeriggio. Sono le 18:08, ben ritrovati in compagnia di Focus Economia, seconda parte. La prima l'abbiamo dedicata a parlare del credito, il problema del credito alle piccole e medie imprese, e poi ovviamente la nostra ampia pagina sui mercati e sulla situazione piuttosto delicata in cui versa risanamento, con il parere negativo dei PM sul piano di ristrutturazione. Staremo a vedere che cosa succederà nell'udienza di domani. Come anticipato in apertura di programma, adesso parliamo di finanziaria 2010, e ne parliamo perché è cominciato in ritardo, alle 17:30 invece che alle 17, l'incontro a Palazzo Chigi sulle linee guida della legge finanziaria tra governo, parti sociali, enti locali, anche se all'incontro non partecipano le regioni. Ci faremo poi raccontare dal nostro corrispondente a Roma, Vincenzo Miglietta, che cosa è successo davanti a Palazzo Chigi, perché c'era una certa folla per entrare nel palazzo, tante e tali erano le organizzazioni e i rappresentanti che dovevano appunto accedere all'incontro. La soluzione che si profilerebbe è quella di un varo subito di una manovra leggera sia per quanto riguarda il contenuto, 3-4 articoli, sia per quanto riguarda proprio l'importo, 3-4 miliardi, per poi verificare più in là, quando la manovra sarà in Parlamento, la disponibilità di risorse per finanziare misure nuove. Si guarda da una parte ai primi risultati dello scudo fiscale, che ci saranno solo in autunno, autunno inoltrato diciamo noi, e dall'altra all'eventuale rafforzamento dei primi segnali di ripresa economica. Siamo già in collegamento con Vincenzo Miglietta, che saluto. Buonasera Vincenzo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Allora Vincenzo, dicevamo che abbiamo letto sulle agenzie che c'era una fila davanti a Palazzo Chigi per l'incontro con il governo. Sì, è proprio così. Dobbiamo immaginare che sono 36 le sigle associative presenti, tra sindacati industriali, artigianali, commercianti ed enti locali, in questo caso province e comuni. Sono assenti, come dicevi giustamente da studio, le regioni, sono assenti per un problema ancora legato ai fondi FAS, ai fondi delle aree sottoutilizzate, e le regioni volevano un incontro prima con il governo, incontro che non c'è stato. Per quanto riguarda invece i contenuti di questa finanziaria, ancora non si hanno certezze, siamo a livello di indiscrezioni. Si tratterebbe di un testo molto snello, 3 articoli e relative tabelle, per un impatto della manovra pari a 3 miliardi di euro. Secondo alcune fonti il governo vorrebbe intervenire in due fasi, ora con nuovi incentivi per imprese e famiglie. Si tratterebbe di fatto di misure dal forte impatto anticrisi. In un secondo tempo poi, con le nuove risorse derivanti per esempio dallo scudo fiscale, l'esecutivo andrebbe a risolvere alcune questioni, dalle risorse per i contratti pubblici agli incentivi per la contrattazione di secondo livello fino a quelli per l'auto. Diverse le indiscrezioni di tipo macro e economico, siamo però da sottolineare ancora a livello di indiscrezioni: il prodotto interno lordo quest'anno dovrebbe diminuire del 5%, mentre il rapporto tra deficit e PIL dovrebbe attestarsi sul 5%. Le nuove stime rivedrebbero quindi in positivo quelle precedenti del documento di programma programmazione economica e finanziaria. Vincenzo, volevo semplicemente chiederti se prima di accedere, di entrare poi all'incontro con il governo, qualcuno delle parti sociali si è soffermato per qualche dichiarazione ovviamente precedente all'incontro. Dichiarazioni importantissime no, abbiamo avvicinato solamente il fronte che rappresenta il settore agricolo, che si è detto scontento almeno per quanto riguarda le anticipazioni circolate in questi giorni per questo settore, le misure che Palazzo Chigi sarebbe studiando non sarebbero all'altezza per rilanciare un settore colpito duramente dalla crisi. Certo, grazie a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Roma. E allora noi possiamo farvi sentire quello che ha dichiarato questa mattina la presidente degli industriali Emma Marcegaglia, che poi questo pomeriggio ovviamente si è recata a Roma per l'incontro. La Marcegaglia ha chiesto di lavorare nella gestione dell'emergenza della crisi, in particolare il presidente di Confindustria ha invitato a lavorare con attenzione agli ammortizzatori sociali, alla decontribuzione dei salari e ulteriore detassazione dei salari di secondo livello. Sentiamola. Ma noi continuiamo a chiedere da una parte di lavorare ancora nella gestione dell'emergenza della crisi, quindi attenzione agli ammortizzatori sociali, decontribuzione dei salari, ulteriore detassazione dei salari di secondo livello, e chiediamo anche che vengano eseguite le leggi che sono già state decise. Il credito d'imposta per la ricerca non può essere bloccato, il credito d'imposta per il Sud deve andare avanti. Nello stesso tempo però chiederemo che per quanto riguarda il medio termine si ritorni fortemente a parlare di riforme, quindi andare avanti con la riforma della burocrazia, della scuola, fare investimenti in infrastrutture. Sono stati stanziati dei soldi, però per il momento ancora pochi sono i cantieri aperti. Questa mattina a Bergamo, all'incontro degli industriali, era presente anche il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che questo pomeriggio anche lui si è spostato a Roma, il quale ha detto che si aspetta la conferma delle linee guida di cui si era già anticipato, ossia mettere a disposizione le risorse per gli ammortizzatori sociali destinati ai lavoratori. Sentiamo Bonanni. Ci aspettiamo un'attenzione importante, non solo verso, che chiediamo con tutte le nostre forze, sostegni a tutti coloro che possono perdere il reddito, darlo, lavorare a che non si perdano posti di lavoro, bene, e su questo abbiamo insistito e lo faremo ancora, però qui c'è un problema anche serio oramai, c'è chi è povero e paga di più e chi è ricco paga di meno, questa storia deve finire, chiediamo al governo un colpo secco che riduca le aliquote sul lavoratore e pensionati e carichi sui consumi. Tutti consumiamo, ma chi è più povero consuma di meno, chi è più ricco consuma di più. Spostare sui consumi significa far pagare di più chi è più ricco. Allora, abbiamo parlato dell'incontro a Palazzo Chigi che è ancora in corso tra governo e parti sociali per parlare di finanziaria. Ovviamente si parlerà anche di crisi e di molti aspetti legati alla crisi, della situazione dei lavoratori e in generale dei cittadini. Il superamento della crisi passa anche dalla riforma del diritto del lavoro. Se ne discute nella quarta edizione delle serate INAZ oggi a Milano. Tra i partecipanti anche il professor Pietro Ichino, senatore del Partito Democratico e giuslavorista, firmatario di un disegno di legge per la modernizzazione del nostro diritto del lavoro. Sentiamo con quali caratteristiche. Noi abbiamo bisogno di uscire dalla crisi con un diritto del lavoro nuovo che offra per un verso alle imprese, per altro verso alle nuove generazioni le condizioni migliori per investire sul futuro. Occorre un diritto del lavoro semplice. Noi oggi abbiamo un diritto del lavoro sparso in centinaia di leggi che occupano 2000 pagine di un codice del lavoro. Noi abbiamo bisogno di invece un diritto del lavoro immediatamente conoscibile, che sia friendly nei confronti dell'investitore straniero, così come ben conoscibile e quindi applicabile universalmente tra i lavoratori, per tutti i lavoratori in posizione di dipendenza. Per questo abbiamo lavorato a lungo, per tutto un anno, a distillare l'essenza delle norme protettive da tutto questa congerie di leggi, le abbiamo concentrate, sintetizzate e rese più incisive in un codice del lavoro di 64 articoli che ha l'ambizione appunto di sostituire questo immenso, questa immensa congerie di norme di difficilissima lettura e praticamente inconoscibili. La logica è quella del diritto del lavoro del Nord Europa, diciamo è il modello della flexicurity, cioè la coniugazione del massimo possibile di flessibilità per le strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza, certo, per il lavoratore nel mercato del lavoro. Senta, professore, visto che è lei il firmatario di questo progetto di legge e ci parlava di 64 articoli, quindi condensare poi in pochi articoli il diritto del lavoro, si tratta di 49 articoli per la disciplina dei rapporti individuali e solo 15 per la disciplina di quelli sindacali. Per questo, secondo, cioè, lei vuole intendere anche, come dire, una minore presenza dei sindacati? No, assolutamente. Non è certo dal numero e dal volume normativo che si misura quello che può essere il ruolo di un'organizzazione sindacale nel tessuto produttivo. Il ruolo e l'importanza del sindacato dipenderà dalla sua capacità di guidare i lavoratori nella necessaria scommessa sui piani industriali innovativi e nella scelta, nell'ingaggio dell'imprenditoria mondiale, il meglio dell'imprenditoria mondiale che dobbiamo tirare in casa nostra. Per questo occorre non soltanto un diritto del lavoro semplice, ma anche un sindacato capace di valutare la qualità dell'imprenditore, valutare la qualità del piano industriale e, quando la valutazione è positiva, scommettere su quel piano. In qualche modo noi continuiamo a parlare di crisi. Perché? Perché proprio la crisi ha innescato tutto un dibattito sulla validità del PIL, del criterio del PIL per analizzare poi l'andamento di un paese, la salute di un paese. Se ne è occupato Focus anche qualche giorno fa. Secondo alcuni economisti il PIL non è più in grado di intercettare e misurare beni e servizi che non sono oggetto di transazioni di mercato, come quelli appunto prodotti dal mondo non profit o in ambito familiare. Diciamo che a livello internazionale l'ultimo a sollevare questa questione è stato il presidente francese Sarkozy, che appunto, ricevuto poi il rapporto della commissione che ha istituito appositamente su performance economica e progresso sociale presieduta dall'economista americano Joseph Stiglitz, ha detto che occorre mettere proprio fine alla religione delle cifre per poi misurare invece il progresso economico e sociale di un paese. Occorre quindi introdurre nelle statistiche sulla crescita anche i servizi che vengono forniti alla famiglia, al tempo libero, la qualità del servizio pubblico. E proprio oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica di 103 province italiane sulla base di indicatore del benessere, il PIL del benessere. Abbiamo qui in studio con noi la collega del Sole 24 Ore del lunedì, Francesca Barbieri, che saluto. Buonasera. Buonasera a tutti. Che insieme alla collega, l'altra collega Chiara Bussi, ha proprio firmato l'approfondimento di oggi, che è oggi sul Sole 24 Ore. Prima però di parlare più approfonditamente con Francesca anche dei criteri che sono stati utilizzati per stilare questa classifica, sentiamo la nostra scheda. È risaputo che i soldi non portano la felicità. L'ennesima riprova arriva dai piccoli centri italiani. Il cambio da PIL, prodotto interno lordo, a BIL, benessere interno lordo, premia infatti Forlì Cesena, Ravenna e Firenze. Nella top 10 di province con un livello di benessere superiore alla media, se si eccettua Verona al quinto posto, ci sono solo città del centro: Siena, quarta, Pesaro Urbino, sesta, e poi Ascoli Piceno, Rimini, Ancona e Macerata. Il cambio di prospettiva premia anche Rieti, che guadagna 54 posizioni nella classifica del benessere rispetto a quella della ricchezza, ma anche Lecce, Perugia e Lucca. E se l'indice di benessere esalta i piccoli centri, a perdere terreno rispetto al livello di ricchezza prodotta sono invece le città più grandi. È il caso di Milano e Roma, dove si starebbe peggio di quanto il PIL non faccia capire. Milano, sempre in testa quanto a ricchezza, è invece 37esima per qualità della vita. Non va meglio a Roma, dove il livello di benessere è ancora più basso, al 79esimo posto. Dietro la capitale, Bolzano, sorprendentemente scivolata all'80esimo posto, ben 77 posizioni in meno rispetto alla classifica del PIL. Ma la forbice tra benessere e ricchezza prodotta è ancora più ampia nelle zone tradizionalmente più ricche. Nel nord-est, Vicenza scivola al 45esimo posto quanto a qualità della vita e Venezia al 70esimo. Stesso discorso per il nord-ovest. Torino cede 53 posizioni, Novara ne perde 25 e Vercelli 20. In Lombardia, Brescia, nel confronto con la classifica del PIL, cede 43 posti, Bergamo 40, Varese 38. Al contrario, nessuna sorpresa in fondo alla classifica. Sono al sud i centri dove la qualità della vita è al di sotto della media. Fanalino di coda, Siracusa, preceduta da Caltanissetta e Napoli. Insomma, non basta vivere in un posto dove c'è sempre o quasi sempre il sole per essere in una città che, insomma, in cui si vive meglio delle altre. Francesca, io vorrei capire quali sono stati i criteri con cui avete elaborato insieme al Centro Studi Sintesi questa classifica. Ecco, noi partendo dal risultato prodotto dalla commissione presieduta da Stiglitz la scorsa settimana, abbiamo cercato di fare un piccolo esempio e di individuare una serie di indicatori che dessero un po' la misura della qualità della vita, al di là del PIL. E quindi, oltre al PIL, abbiamo individuato altri 7 indicatori che sono appunto indicatori che misurano, non so, il livello di salute, di sicurezza, il livello di istruzione oppure il livello appunto di coesione sociale e che quindi hanno, come dire, stravolto in una certa misura la classifica tradizionale del PIL che si basa semplicemente sui risultati economici, per cui troviamo in testa Forlì Cesena, troviamo Milano che è la regina del PIL, la troviamo alla 37esima posizione. Esatto, ma quello che mi ha più colpito, che poi abbiamo messo in evidenza anche nella scheda, è Bolzano, che uno magari si immagina che in Trentino Alto Adige si stia benissimo, sono anche molto belle tra l'altro sia Trento che Bolzano, cioè. E poi invece anche Bolzano la troviamo scivolata molto in basso. Ecco, una premessa va fatta: noi abbiamo fatto, come dire, un esempio, come dicevo prima, per cui abbiamo individuato solo 8 indicatori. Nel rapporto di Stiglitz ce ne sono tantissimi. Certo. Per cui abbiamo individuato alcuni indicatori che penalizzano Bolzano. Ad esempio, per quanto riguarda il livello di scolarizzazione della popolazione, abbiamo preso il tasso di istruzione universitaria e a Bolzano c'è una percentuale bassissima di laureati rispetto alla media italiana, rispetto ad altre città. Per cui questo indicatore ha fatto un pochino precipitare Bolzano, certo. Come ad esempio anche la presenza di associazioni di volontariato, che misurano, è un indicatore che abbiamo preso per misurare il livello di coesione sociale, e anche in questo Bolzano è penalizzata. Quindi, come sempre poi in queste classifiche, c'è bisogno di analizzare più nello specifico, anche forse caso per caso, non dico città per città perché sono 103 e mi sembra un po' complicato, però andare poi ad analizzare quelli che sono i casi più eclatanti, più evidenti, che possono essere stati appunto, come dicevi, penalizzati più o meno dai criteri presi in considerazione. Esatto. Detto ciò, le città del nord, che sono quelle più ricche da sempre, comunque nel complesso restano più indietro. Sì, sono penalizzate, soprattutto Milano, ma anche Roma, il centro, le grandi metropoli, Torino è penalizzata. E l'indicatore che le penalizza di più è sicuramente quello della sicurezza, perché noi abbiamo considerato i reati e in queste grandi città sono molto elevati, per cui sicuramente questi indicatori hanno penalizzato le grandi metropoli. Grazie a Francesca Barbieri. Io non mi ero assolutamente resa conto che il tempo a nostra disposizione era completamente terminato. Ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Filippo Aureggi. L'appuntamento con Focus Economia è rinnovato per domani.